La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Davide Peron, lei è un musicista che ha fatto una scelta molto forte, cioè quella di cominciare a suonare in mezzo alle sue montagne per la gente che aveva voglia di raggiungere i rifugi. Come nasce innanzitutto questa idea? Questa idea nasce perché io nei monti ci sono sempre vissuto e quindi per me è stato anche naturale portarci tutto di me. Quel che sono io, la mia passione, la mia voglia di andarci sulle montagne, di far fatica per arrivare sempre in cima, no? E vedere un po' cosa si vede dall'alto, e quindi ci porto anche le mie canzoni, perché ad un certo punto della mia vita io mi sono reso conto che sono nato per essere strumento della musica, e quindi questa mia consapevolezza mi ha fatto anche dar frutto a questo tour che va in giro per i monti. Qualcuno arriva dopo aver camminato per ore. Si siede sull'erba davanti al rifugio, si toglie gli scarponi, resta fermo, guarda il paesaggio. I bambini giocano, soddisfatti di aver raggiunto la vetta con le loro gambe. Alcuni papà appoggiano sull'erba zaini con dentro piccoli addormentati. Parole nere, vestite di bianco. Le cose partono da molto lontano. Davide Peron inizia a suonare. Attorno c'è rumore di vita di montagna e tutto sembra così familiare e buono che quasi non sembra vero che laggiù, solo qualche chilometro oltre queste montagne, ci siano città dove tutto è frenetico e senza tregua. Questa è la prima volta di Davide, un musicista che qualche anno fa ha iniziato a suonare sulla vetta dei monti. A inizio in Veneto, in un piccolo paese di montagna. È una storia buona questa, semplice e dolce, come certe abitudini che ha la piccola provincia quando riesce ad essere luogo di accoglienza. Davide Peron ha 38 anni, è un musicista di periferia, di quelli destinati, se va bene, a vivacchiare con la musica nel tempo libero. Lo fanno studiare come tecnico, va a lavorare in una fabbrica, ma non funziona. Credo che la musica, nel momento in cui mi sono reso conto che la bellezza della musica è estrema e oltre a quello è anche inutile ad andare a cercare, è stato come un abbaglio, una consapevolezza proprio totale, per cui è quello per cui io sono nato ed è quello per cui io voglio vivere e dare il meglio di me. Ma lei prima faceva un lavoro differente, cioè faceva qualcos'altro e nel frattempo suonava. Com'è stata la sua vita, diciamo, fino a quando non ha deciso di fare il musicista completo? È stata una bella scelta, sì, perché io ho fatto gli studi tecnici, ho iniziato a lavorare negli uffici tecnici, però ad un certo punto mi sono reso conto che la mia vita non aveva senso far pezzi di ferro per altri pezzi di ferro, no? E quindi ho deciso di fare un lavoro per cui il contatto con gli occhi degli altri aveva più senso, e quindi io mi sono laureato in scienze dell'educazione, ho iniziato a fare l'educatore in una comunità per recupero di tossicodipendenti. E la musica comunque c'è sempre stata, l'ho incontrata fin dalle elementari e quindi è una consapevolezza che è antica nella mia vita. E nel momento però in cui ho capito che questo mio scavare nella musica, scavare in me stesso, accoglieva anche l'altro, ho capito che è un punto talmente forte la musica, per cui è una piazza in cui ci si incontra e ci si incontra davvero tutti. E quindi è per questo anche che ho scelto e mi rendo conto che il bisogno dell'incontro, soprattutto anche in questo periodo, è tanto forte, e quindi la musica è una potenza incredibile in questo senso. Quante volte le persone le hanno detto: Davide, lascia stare, non ce la farai mai a vivere con la musica, non mollare? Tante volte, soprattutto quando ancora ero giovane, abitavo con i miei genitori, c'è stato ma più che uno scontro, un voler da parte dei miei genitori farmi vedere che la realtà probabilmente non è un sogno, no? E quindi è difficile vivere di musica. Mi stavano dicendo: guarda che noi ci teniamo a te, però con la musica, credici, farai tanta fatica. Ed è vero, cioè non è che si vive, è fatica, ma è fatica come tutti quanti gli altri lavori. Però poi, quando si sono resi conto anche loro, anche chi mi diceva lascia stare, che non è il caso, dico, la musica ha messo d'accordo tutti, ha messo d'accordo tutti. Davide Peron è nato per suonare. Nessuno gli regala niente e allora decide di fare un passo grande e di mollare un progetto solido a favore della musica. Da qualche anno Davide si esibisce con altri musicisti in tournée dal titolo Mi rifugio in tour. Camminando lungo sentieri di montagna, strumenti in spalla, si arriva nei rifugi di sera, al calar del sole, sullo sfondo di un tramonto indescrivibile, si suona. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. La prima volta di Davide Peron ha inizio qualche anno fa, quando decide che avrebbe suonato la sua musica sulla vetta delle sue montagne, le Piccole Dolomiti. È una prima volta dal passo lento questa. Questa qua racconta un po' la vita che io vivo. Ed è la vita, io sono nel nord vicentino, mio papà era un contadino, vivo attorno alle campagne, ai piedi dei monti, ed è un po' tutta quella delicatezza di questo mondo agricolo che si sta anche un po' perdendo, per cui i sentimenti sono talmente forti che non occorre gridarli, sono così forti che basta viverli e delle volte basta anche solo guardarci. E ancora il richiamo delle campane per richiamare la gente a messa, ancora il fatto che ci si cucina noi ancora cuciniamo la torta la domenica, le mamme, le madri, le nonne, ancora tutti questi incontri familiari che ancora esistono qui da noi, e il fatto di fare l'orto, di vedere le piante, quando si mette il seme poi la pianta cresce. Tutte queste delicatezze che alla fine dei conti sono la vera forza della vita, e quindi io ho voluto un po' raccontare questa cosa qua. Tu quest'anno andrai in giro per rifugi, incontri sempre le stesse persone, incontri un pubblico nuovo, che cosa ti dice la gente dopo che ha ascoltato un tuo concerto in un rifugio? È un'esperienza davvero particolare, perché le persone fin dall'inizio, quelle che ci sono state già dal primo anno di questo mio rifugio in tour, continuano ad esserci, e il numero però del pubblico aumenta sempre di più, e tutti quelli che arrivano anche per caso in uno dei rifugi poi li ritrovo sempre in tutte le altre date. Ormai davvero i monti sorridono quando arrivo, perché davvero ci sono tantissime persone che mi seguono. Loro sono felici perché faccio incontrare la musica, non sono da solo, io non faccio mai niente da solo, e ho una band di musicisti davvero incredibile, e solo per loro io vado delle volte, io sono la scusa perché loro suonano delle volte, quindi questo mi basta. Poi oltre a me ci sono tutti i miei ospiti musicisti, pittori, fotografi, poeti e altro, per cui tutta la gente li incontra e vede che oltre la musica è anche catalizzatore per tante altre cose che altrimenti avrebbero poco spazio. E quindi è un incontro di anime, no? Che si incontrano in cima ai monti. Io te lo voglio dire, che quando guardo gli occhi tuoi, belli di un giorno di sempre, ovunque e per dove tu sei. successo come forbice che può recidere il contatto con la propria terra. Davide ogni tanto ha paura che questo possa accadere, anche se da lassù, tra le montagne che ogni estate percorre per esibirsi, ritrova un mondo brusco, solido, capace di riportare chiunque coi piedi a terra. In fondo la montagna è questo, poter volare alto, passo dopo passo. Una cosa qui non ci penso troppo perché, ripeto, quando mi sono reso conto che io sono strumento, è come quando si pianta un seme della pianta, no? Si pianta il seme ed è inutile star lì a forzare perché la cosa cresca. Bisogna avere pazienza perché le cose comunque accadono. Tutto il lavoro non è mai buttato via, mai. E quindi le cose belle nascono perché c'è l'amore per l'opera. Nel momento in cui uno mette se stesso al posto dell'opera per vanità, per che ne so io quanti altri motivi, impedisce la crescita delle cose anche utili. Questo è un pensiero che proprio ho forte e voglio che sia davvero lontano da me. Comunque ti ringrazio perché sarebbe bello aver successo, no? Ma non è quello che io voglio, ecco, nel mio profondo. E quello che tu mi chiedevi è che ormai quello che potevo aver, se dovessi aver dovuto scegliere per andare via, l'avrei già fatto. Quindi non ho paura di essere costretto ad andare via. Chiaro, se avrò dei concerti, delle cose da fare via da qua, ovvio che ci andrò, ma per brevi periodi. Io sono davvero radicato qui e mi sento a casa e tutto quello che sto cercando lo sto trovando negli odori, nei ricordi delle vie del mio paese, negli incontri con le persone che mi vivono di fianco. E non ho paura di andare via perché so che io sono qui e qui ci rimarrò il più possibile. Senta, guardando la sua vita oggi, quale pensa sia stato il momento più forte, sia dal punto di vista artistico che emotivo, un momento cioè che l'ha cambiata? Ci sono stati tanti momenti, io però credo che la differenza tra sogno e realtà è sempre una data, un punto preciso, un incontro, una cosa che prende forma, un'apparizione se vogliamo. E uno dei più forti è stato l'incontro con la poetessa Miranda Bille, che anche lei abitava a Sant'Orso, è andata nell'altro mondo, no? Da noi si dice così, neanche un mese fa, e quindi questo ha lasciato in me un grande vuoto. E l'incontro con la poesia, perché lei è la poesia, mi ha davvero cambiato la vita, sia nelle scelte che ho preso dopo, sia nel come scrivere, come intendere la musica, come intendere me stesso nei confronti della musica, no? Nei confronti della vita, nei confronti degli altri. E questo è stato uno dei forti, diciamo, non il più forte, ma insomma uno dei più forti momenti della mia vita, sì, che ha dato una svolta. Questa è la storia di un ragazzo e del suo amore per la musica. Un ragazzo che aveva ascoltato gli adulti e aveva cominciato a fare altro, ma non funzionava. La vita non girava, la felicità non scorreva. Questa è la storia di un ragazzo che ha avuto il coraggio di seguire il suo istinto, prendere in mano la chitarra e suonare. Questa è la storia di un successo quasi intimo, di un uomo che è diventato grande perché ha creduto nel suo sogno. Così come per Billy Elliot, personaggio protagonista dell'omonimo film. Un'ultima domanda. Posso chiederti, Billy, che genere di sensazioni hai quando danzi? Non lo so. Una bella sensazione. Sto lì tutto rigido, ma dopo che ho iniziato, allora dimentico qualunque cosa. È come se sparissi. Come se sparissi. Cioè sento che tutto il corpo cambia. Ed è come se dentro avessi un fuoco. Come se volassi. Sono un uccello. Sono elettricità. Sì, sono elettricità. La prima volta termina qui. Grazie per essere stati con noi. Il nostro indirizzo email per scriverci è laprimavolta@radio24.it. Ci sentiamo domenica prossima, sempre attorno alle 13. Con noi ci sarà Carlo Petrini. Grazie a tutti e buona domenica da Cristina Carpinelli. Respirerò l'odore dei granai. Pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò, che pioggia tu sarai.